513. Stoccafisso in umido. Stoccafisso ammollito, grammi 500, così diviso. Schiena, grammi 300. Pancette, grammi 200. Levategli la pelle e tutte le lische, poi tagliate la parte della schiena a fettine sottili e le pancette a quadretti larghi 2 dita. Fate un soffritto con olio in abbondanza, un grosso spicchio d'aglio o 2 piccoli e un buon pizzico di prezzemolo. Quando sarà colorito, gettateci lo stoccafisso condito con sale e pepe. Rimestate per fargli prendere sapore e dopo poco versateci 6 o 7 cucchiaiate della salsa di pomodoro del numero 125, oppure pomodori a pezzi senza la buccia e i semi. Fate bollire adagio per 3 ore almeno, bagnandolo con acqua calda versata poco per volta ed unendovi dopo 2 ore di bollitura una patata tagliata a tocchetti. Questa quantità è sufficiente per 3 o 4 persone. È piatto appetitoso, ma non per gli stomachi deboli. Un amico mio, certo di fare cosa gradita, non si merita di invitare dei gran signori a mangiare questo piatto da colazione.